Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, canto primo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'io v'intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al pie d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già de raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, ch'io fui per ritornar più volte volto. Temp'era dal principio del mattino e il sol montavan su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sì ch'a bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molti genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch'uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volontieri acquista e giugne il tempo che perder lo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista? Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre ch'io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Risposemi, non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Or se tu, quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume, risposi io lui con vergognosa fronte, o degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, ch'ella mi far tremare le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio. Rispose, poiché lagrimar mi vide. se vuo campar d'esto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto l'ompedisce che l'uccide, e a natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora infin che il veltro verrà che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la vergine Camilla, e Urialo e Turno e Niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'onferno, la onde invidia prima di partilla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, ch'a la seconda morte ciascun grida. E vederai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire quando che sia le beate genti. Alle quai poi, se tu vorrai salire, anima fia, ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire. Che quell'imperador che lassù regna, perch'io fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio, o felice colui cui vi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò ch'io fugga questo male e peggio che tu mi meni là dov'or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro.